Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 e ci siamo. Non siamo neanche in particolare ritardo oggi, quindi siamo a questo 11 aprile. Può essere che prendono, che dici, prendono l'uomo di Budr, no? Il serbo, non si capisce, sia serbo sia russo, ha 12 identità, 12 identità. Sì. Ezechiele, Norberto, Igor. Dice che lo prendono come amministratore delegato al sole, se lo prendono. Dai. No? Non so, perché pare che le cifre più o meno come ammontare sono tali da far impallidire anche. Ma detto questo, allora, 11 aprile. Io devi sapere che da torinese oggi c'è una notizia, no, attenzione, sì, per i topolini in ascolto, non mi riferisco ovviamente ai quarti di finale della Coppa stasera, Juventus Barcellona. Auguri a tutti, ci fate quello che volete, e ci mancherebbe. Grande auguri alla Juve, stiamo italiano. No, da torinese si sono piegato in due amaramente, perché è una notizia che devi sapere, che il tribunale di Torino ha un bar che ogni decennio si becca essere gestito da una delle grandi reti criminali, perché negli anni 80 era gestito dall'Ndrangheta, adesso una nuova indagine scopre che è gestito dalla Camorra. Il prossimo giro sarà cosa nostra, ma io, cari colleghi della stampa, poi c'è la sacra corona, non vedo la notizia, sono da sempre in affari con lo Stato, capite? Quindi per me è molto amaro dirlo, però dà l'idea. Del resto, i magistrati che entrano nella vita dei partiti, come capita a Genova, i carabinieri che truffano nelle intercettazioni ai pubblici ministeri sul padre di Renzi, viviamo in un paese fantastico comunque. L'unica è pregare i santi, perché ci crede. Infatti cominciamo dal santo giorno San Stanislao. San Stanislao è uno dei vescovi della nazione polacca, cioè proprio che fondante nell'identità della fede dei polacchi. Perché è un vescovo di Cracovia, quindi di una delle città fondamentali, capitale del regno, che nel 1079 viene, per l'energia con cui conduce la sua intransigente lotta di denuncia contro gli eccessi del re Boleslao, che disprezza la legge, uccide, violenta, ruba, lui fa una campagna pubblica in cui incita il re a cambiare vita, fino a scomunicarlo, e il re Boleslao a quel punto irrompe in chiesa e gli spacca la testa personalmente con una spada. E per questa intransigente lotta a difesa dei polacchi, non a caso San Stanislao diventa, oltre che per la santità, la sua vita per i poveri eccetera, ma insomma diventa un simbolo dell'identità che lotta contro il potere e i suoi eccessi, tanto che poi il papa dell'epoca, Gregorio VII, un papa che dava i ceffoni alla politica, scomunicherà questo re polacco, che nella storia poi si chiuderà in un convento a espiare prima ancora la morte i suoi peccati. Però è una grande storia, perché a me piace l'idea di un vescovo che diventa punto di riferimento perché si batte a difesa dei diritti del suo popolo. E questo anche spiega perché la fede in Polonia è una cosa fondante l'identità nazionale, proprio per questo tipo di vescovo. Immaginate un vescovo che in Italia scomunica un re perché ma quando c'erano i re, i vescovi che scomunicavano i re perché rubavano le terre ai propri cittadini. Ecco, invece la Polonia l'ha avuto. Devo dire che tra i tanti avvenimenti della giornata io ne cito solo due che mi sono cari per dire una cosa. Nel 1961 comincia in Israele il processo ad Adolf Eichmann, che il Mossad aveva rapito in Argentina, e sul processo al gerarca nazista si incardina il fondamento, per così dire, della maniera storiografica della modernità contro il nazismo e chiunque sia stato responsabile. E da questo punto di vista, siccome è anche l'anniversario oggi della morte del primo nel 1987, che era stato ad Auschwitz, ecco, evoco questi due avvenimenti perché mi sembra la maniera giusta per rispondere alla signora Le Pen, che invece ha escluso le responsabilità della Francia nelle grandi retate di ebrei del 1942. Se questo è il modo della Le Pen per far dimenticare l'ombra del padre, direi che è tale quale, e mi vengono i brividi all'idea di un'Europa in cui alla testa della Francia c'è di nuovo qualcuno che difende il regime di Vichy, che ha avviato a morte certa ad Auschwitz decina di migliaia di francesi. Non c'è bisogno di gente così, lo dico con tutta la brutalità di cui sono capace. Auguri anche a Enrico De Aglio, grandissimo giornalista torinese, medico. Pochi si dimenticano che uno dei pochi medici giornalisti, perché esercitava il Mauriziano prima che poi la passione politica lo portasse a dirigere Lotta Continua e tante altre cose che ha fatto nei decenni, insegnando un giornalismo di passione civile che mi è molto caro da torinese. Poi magari non la penso come lui in politica, ma non vuol dire niente, un grandissimo giornalista. Allora, alle 8 e 25 minuti, caro Oscar, sulla questione dei carabinieri, del giudice Cassimatis, hai detto un po' tutto tu. Insomma, se volete chiamarci all'800 24 00 24 a parlare anche di questo. In realtà noi abbiamo deciso di approfondire un altro argomento, che poi ovviamente siamo aperti a tutto, come sapete, i vostri commenti. Oggi Avvenire mi ha colpito perché racconta che quella che viene definita la rivolta dell'Islam in rosa. C'è un altro caso, ed è l'ultimo solo in ordine di tempo, di una quindicenne picchiata dal padre perché, questo almeno si legge sui giornali, non voleva portare il velo e quindi si è ribellata e tra l'altro è andata a denunciare, questa forse è la novità. Pensa che nei giorni scorsi c'era scritto che a Pesaro, non so per quali motivi, ma a Pesaro ci sono state 10 denunce in un mese di donne che, cresciute in un ambiente e in una famiglia musulmana, hanno denunciato comportamenti violenti in famiglia. Forse si è messa in moto una catena emulativa, visto che qualcuno vuole il sostegno, chi fino a quel momento taceva inizia. Non si sa. Intanto lo vogliamo chiedere al sindaco di Pesaro, che è spesso con noi, lo ringraziamo ancora, Matteo Ricci, il Partito Democratico. Sindaco, buongiorno. Intanto, buongiorno a tutti. Lei sapeva di questi numeri e ce li sa in qualche modo decodificare, cioè ce li sa spiegare? Ma come dicevate, c'è una questione generale, per fortuna, di cambiamento culturale delle nuove generazioni. Il fatto che ragazze nate qua e di conseguenza tutti gli effetti italiani, che crescono con una cultura fondamentalmente italiana, se non altro fuori da casa, aiuta in qualche modo a essere un po' più indipendenti, di conseguenza a scegliere loro con maggiore autonomia se seguire, diciamo, i dogmi della propria religione, il velo piuttosto che altro. Ma la cosa che è più positiva è questa della capacità, finalmente, che non riguarda solo le musulmane ma anche le italiane, un po' alla volta, di denunciare le violenze che subiscono. Sì. Non dimentichiamo. Ma come mai questi casi a Pesaro? Cioè, si è stupito noi, lei? Devo dire che da diversi anni, ormai sono 6 o 7 anni, è stata una delle prime realtà in Italia a sviluppare un centro antiviolenza molto importante, dove un luogo nel quale le donne trovano sostegno psicologico, sostegno giuridico, gestito da altre donne, ed è una cosa molto importante. E noi abbiamo, forse anche perché ci siamo caratterizzati come territorio per un caso molto eclatante come quello di Lucia Annibali, che ha fatto parlare tantissimo, la ragazza sfigurata con l'acido, sì, che ha fatto parlare tantissimo, c'è stata una fiction su questo caso, quindi ci sono sia servizi che purtroppo casi emblematici che magari hanno fatto emergere maggiormente il tema della violenza sulle donne. E quindi il fatto che sempre più donne, musulmane e non, abbiano il coraggio di andare a denunciare le violenze che subiscono, questo lo ritengo una cosa molto positiva, perché invece c'è una tendenza di base a non dire, a non raccontare, sì, a vergognarsi, a difendere il proprio partner fino alla fine. E il fatto che ci sia la volontà maggiore di altre città, a Pesaro, di denunciare soprusi, la ritengo un passo verso in avanti in termini di civiltà. Su questo non c'è dubbio. Nella negatività del fatto, sono soddisfatto che ci siano persone che trovano il coraggio di denunciare. Qui bisogna capire, tra l'altro, Oscar, se come sempre quando si affronta questo argomento, tra l'altro adesso c'è un'altra ospite che presentiamo, bisogna capire quanto la religione, quanto dobbiamo coinvolgere, quanto sia una questione culturale, quanto sia una questione meramente religiosa. Non è neanche facile poi distinguere quale no, sia e quanto poi sia un successo, sì, perché affermiamo i nostri diritti per tutti, anche per gli adolescenti e i giovani, e quanto contemporaneamente la manifestazione è un problema, i giudici che poi dicono l'unica cosa è mandarli in comunità e levarli alle famiglie. Cioè, io esatto, da una parte difendo i diritti, dall'altra dico che è la prova del fatto che non abbiamo un modello di integrazione che funzioni. Eh sì, l'integrazione è poi la chiave. Vogliamo infatti salutare Marianne Ismail, che è fondatrice della Musulmani Laici. Buongiorno Marianne e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Marianne Ismail è una donna italiana di origine somala che si batte da anni per l'integrazione anche in una società sempre più multiculturale come quella italiana, la necessità di un'integrazione. Allora, questi casi, Marianne Ismail, come li dobbiamo affrontare? Sono questioni semplicemente singole, sporadiche? Sono questioni legate alla religione, alle culture? Come li dobbiamo affrontare? Sì, buongiorno ancora. Bisogna affrontarli in una maniera strutturata, nel senso che bisogna comprendere che c'è di tutto in queste ribellioni, in queste denunce. La specificità delle comunità islamiche, delle donne, delle comunità musulmane, e che ha bisogno e si sente il bisogno, e questi sono i primi casi che escono fuori, di un cambiamento culturale tout court. Per prima cosa bisogna capire, bisogna riraccontare che il velo non è un precetto religioso, non è un obbligo religioso, ma è uno strumento politico ideologico di separazione, di polarizzazione fra le due comunità. Non dimentichiamo che per un musulmano uscire fuori dalla propria terra e andare in una terra diversa e emigrare verso la terra dei miscredenti. Ecco, ribaltare questo concetto, andare alla radice di ciò che separa la comunità islamica dalle altre comunità, e ribaltare poi questo precetto. E beh, dire è un lavoro profondo, però. Cioè, cercare profondo, di far capire a un musulmano che lascia le terre. No, è nostro, nel senso è all'interno dell'Islam. Ecco perché l'associazione, la prima associazione di musulmani laici, è proprio il fatto e l'esigenza che noi sentiamo di raccontare a noi stessi, di riprenderci noi stessi quel cammino di emancipazione, quel cammino di separazione fra Stato e religione che negli anni 60 e 70 comunque nelle comunità islamiche era presente. Non dimentichiamo che le donne in quegli anni erano donne che potevano esprimersi, studiare, vestirsi liberamente con abiti tradizionali e non. Ecco che quel passaggio è stato interrotto bruscamente da un racconto invece politico-religioso, ideologico diverso, e quindi ci rifacciamo ai wahhabiti, salafiti, alla fratellanza, tutto quello che oggi in qualche modo frena l'emancipazione, la contemporaneità nell'Islam. Ecco che da dentro, proprio nel mondo islamico, che ci siano delle voci che raccontano pluralità, comportamenti, tradizioni, che sono state annichilite da questo processo, ecco che è il passaggio che noi sentiamo necessario proprio in un discorso di integrazione e interazione. Passaggio culturale. Oscar, alla fine si diceva sempre anche nei giorni scorsi la necessità di una sorta di illuminismo, anche se l'illuminismo è una peculiarità nostra, sì, dell'Occidente, insomma, non si può calare su realtà diverse. Diciamo che noi eravamo nelle tenebre culturali quando invece la tradizione culturale musulmana riduceva in quello che per noi è l'alto medioevo, e senza di loro non avremmo conosciuto interi pezzi della filosofia classica greca, non avremmo avuto tramandati parti fondamentali dell'antica patristica. Cioè, stiamo parlando di nei secoli lo scambio culturale tra dove c'è la luce e dove c'era la tenebra in realtà ha visto alternare la cultura cristiana europocentrica rispetto a quella dell'Islam. Il punto è adesso, come ricordava la nostra ospite, capire se nel pendolarismo tra apertura e chiusura, quella fase che coincideva con la rivoluzione anticoloniale dei paesi musulmani della parte settentrionale dell'Africa e così via, di grande apertura, perché le classi dirigenti alla fine, volenti o nolenti, si erano formate anche nel modello dell'università dei paesi coloniali europei. Poi la fratellanza e il fondamentalismo nelle sue diverse varianti e la reazione a quella. Adesso verso dove stiamo andando col Medio Oriente messo così? complicato immaginare, secondo me, sì, che entro breve, visto il conflitto che c'è, si torna a un'apertura vera. Quindi io apprezzo ancora di più chi tenta questa via. Sì, no? Sono sicuramente voci minoritarie, però Mariano Ismail, concretamente, poi a quella quindicenne che si rivolge alla procura, a quella che dice mi volevano far sposare con quello, che l'uomo che non conoscevo della tribù, a quella che si rivolge e dice mi picchiano perché porto il velo, cosa facciamo? Cioè, le portiamo via dalla famiglia e va bene, ah, e poi che facciamo, poi di che queste eradicate? E io non lo so, ecco, io non ho una risposta a questa domanda, sentiamo. No, guarda, c'è una legge che parla chiaro, la tutela contro la violenza delle donne esiste, la legge dello Stato, e si applica quello, certo. E non è, no, la religione non è una discriminante tale per cui non si deve applicare. Non c'è dubbio. Dopodiché, quando c'è la presa di consegna di queste ragazze, di queste signore, sì, di chi denuncia, e si fa un lavoro poi con le mediatrici culturali preparate ovviamente, e in ogni caso si deve portare l'emancipazione piena di ragazze e di donne che scelgono una via diversa, però, a quella dire, tracciata dalla famiglia. Bisogna aver paura. Non è un po' diversa la questione di un'italiana che è perseguitata da un uomo, si isola, si denuncia e si isola una persona, ma quando il contesto è il cugino, il papà, il fratello, i fratelli, cioè è chiaro che a quel punto la donna, come dire, diventa totalmente isolata, anche secondo me. Minoritaria rispetto a un gruppo. Scusatemi, da qualche parte bisogna iniziare. Certo. Rimaniamo tutti fissi, no? Allora, certo. Il discorso è quando appunto il forum e queste realtà, oggi ne nasce un'altra, insomma queste realtà servono per dare la possibilità a un racconto diverso, quindi strutturalmente si cerca di procedere verso intanto la tutela della persona e poi la sua emancipazione, perché se poi una persona lavora, studia e in qualche modo si integra e diventa indipendente, poi si può ricollegare, riallacciare, ridiscutere, rivedere tutto un procedimento verso la famiglia, ma se abbiamo tutti quanti paura non se ne esce fuori. Ecco che il lavoro delle donne, chi incomincia questo a ribellarsi, chi incomincia a parlare, chi comincia a dire delle cose diverse. Io stessa ho firmato un patto nazionale fra lo Stato e le comunità islamiche, ecco, attraverso quello strumento che è un primo passo noi possiamo intervenire, interagire e vedere di strutturare in maniera diversa questo percorso. È chiaro. Sindaco, lei che pensa? Cosa dobbiamo immaginare come evoluzione del contesto da offrire a queste ragazze di famiglie islamiche che chiedono aiuto, lo ottengono dalle istituzioni, non si discute fino a qua, ma poi qual è il modello attraverso il quale non le consegniamo, per così dire, a un percorso obbligato di eradicazione da tutto il loro habitat che le respinge? Infatti negano di solito quasi sempre che le cose stiano per le cause per cui o hanno rifiutato il velo o hanno rifiutato il matrimonio obbligato, eccetera eccetera. Le famiglie dicono sempre ma no, ma come, eccetera. Questo significa che c'è una rottura che non è colmabile. A quel punto però le istituzioni italiane, secondo lei, signor sindaco, da voi che siete sul territorio, come si può immaginare di non governare solo retture che agli occhi di chi resta dall'altra parte confermano un conflitto culturale, non integrazione, sindaco? Ma è chiaro che le istituzioni devono accompagnare l'emancipazione di queste donne. È chiaro che gran parte della questione è culturale, cioè devono essere donne disponibili ad emanciparsi e devono essere, come dire, convinte di non recepire quei dogmi e quelle usanze. E del resto, voglio dire, io credo che noi dovremmo guardare un po' anche alla nostra storia. Non dimentichiamoci come erano le donne nel nostro paese fino agli anni 50, anni 60. La famiglia patriarcale italiana, i dogmi cattolici che anche per molte generazioni hanno, come dire, caratterizzato gran parte delle famiglie italiane, le battaglie che si sono fatte per far emergere fenomeni come l'aborto che per tanti anni sono rimasti fenomeni nascosti. Cioè, voglio dire, noi abbiamo anche molto da imparare dalla nostra storia, quindi come abbiamo visto se ci sono stati fatti dei passi in avanti da questo punto di vista è stato innanzitutto merito delle donne, della loro formazione, della loro voglia di cambiare, no? E la richiesta di diritti, e conseguentemente dal punto di vista culturale l'Italia è cambiata. Dopodiché anche qui oggi stiamo parlando di diritti di ragazze e donne musulmane, ma non dimentichiamoci che gran parte delle violenze sulle donne anche, anche ora le stanno commettendo gli italiani, spesso e volentieri sono mariti, sono compagni. Non c'è dubbio. Ogni settimana leggiamo sui giornali crimini incredibili, omicidi di uomini che non accettano di essere lasciati, di uomini che non accettano che è la fine di una storia, cioè la sfida culturale continua, su questo non c'è dubbio, ma riguarda purtroppo anche la nostra cultura. Su questo non c'è dubbio, perché poi che ci sia la violenza perché o per la gelosia o per il velo o per la violenza è sempre violenza e quindi va censurata, va condannata. C'è un problema di maschilismo che attraversa le religioni, questo è il punto secondo me. C'è un problema di cultura ancora maschilista che attraversa le religioni, anche le non religioni, diciamo i costumi della nostra società, che è molto forte e sulle quali le donne reagiscono e sui quali invece gli uomini spesso e volentieri ancora fanno battutine. Ecco, allora, quando gli uomini non faranno più battutine su questioni che riguardano la violenza sulle donne, significherà che avremo vinto gran parte della sfida. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ci sono poi gli ascoltatori, riprendiamo il discorso ovviamente, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora Oscar, siamo qui a discutere con anche i nostri ascoltatori, c'è Giulio che ci chiama dalla Spezia, buongiorno Giulio. Sì, buongiorno a voi Giannino e compisoci, buongiorno. Che ci dice? Niente, stavo ascoltando la trasmissione. Allora, io ho 50 anni, sono uno storico dell'Islam e insegno a Pisa contrasto civile e pedagogico al cyberterrorismo jihadista. Relativo all'educazione dei minori e all'utilizzo dei minori nel mondo dei gruppi terroristici, che però non è l'argomento di stamattina. Sì. Per quanto riguarda invece l'argomento di stamattina, volevo solamente fare un paio di precisazioni. Allora, come ha detto la vostra ospite, l'utilizzo del velo non è assolutamente, come sapete anche voi, un precetto coranico, quindi non trovate in nessuna sura del Corano che la donna deve velarsi nel senso dell'abbigliamento, e lo sappiamo. I problemi fondamentali secondo me sono due. Il primo è la strumentalizzazione di questi episodi, cioè fare di questi, che giustamente vanno notiziati, vanno sottolineati, però fare di questi episodi un caso nazionale, io mi occupo di mediazione interculturale, è un grave errore da una parte, perché prima si porta all'attenzione un caso che, diciamo, per carità è grave e assolutamente va rispettato, però si innesca una miccia opposta. Che dobbiamo fare? Quindi non dovevamo parlarne? Non è che non bisogna parlarne, però non bisogna trattare come se fosse l'Islam che fa questo. L'Islam sono 1,5 miliardi di persone. Non abbiamo detto questo, non voi, sto dicendo quando escono le notizie, no? Cioè sono 1,5 miliardi di persone in 56 paesi del mondo, quindi come dire Islam è come dire tutto e niente alla fine. E questi atteggiamenti sono il frutto di una non conoscenza della materia, perché quando si dice che gli islamici, i musulmani obbligano queste cose qui, certo, in alcuni casi le obbligano, però è esclusivamente una questione tradizionale, tribale, di retaggio. Se lo si appoggia all'Islam, l'Islam consta di 5 precetti, come potrebbero essere i 10 comandamenti ebraici, loro ne hanno 5, ma all'incirca sono la stessa cosa. Quindi non bisogna associarlo all'Islam. Non bisogna associarlo all'Islam, ma se lei va nei paesi musulmani, in molti di questi paesi musulmani c'è, non so, sarà appunto come dice lei, è una tradizione, è una questione culturale, non è un precetto religioso, l'abbiamo detto, ma il dato di fatto c'è, voglio dire. La scorsa estate ero in Malesia e le malesi fanno il bagno tutte coperte con tutto, cioè non è che, voglio dire, me lo sono inventato io. Vada a Dubai in aeroporto e veda come girano le donne, non so, oppure ce lo siamo inventati. Comunque Giulio, la ringraziamo per questa precisazione che ci ha fatto. Pasquale da Firenze, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. No, volevo spendere una frase sul caso Conti, posto che sicuramente i problemi dei padri non devono riguardare i figli e io sono pienamente d'accordo, però mi pongo un problema. Ma questo signor poliziotto che avrebbe falsato le... Carabiniere, non poliziotto. Carabiniere, mi scusi, carabiniere. E capitano, oltretutto, un capitano di carabiniere, un ufficiale. Insomma, mi pongo sempre il problema delle motivazioni. ma perché l'avrebbe fatto? Ecco, sui giornali c'è però, questa è la domanda. Sui giornali una pista dietro di lui, bene avanzata. L'ha fatto, è evidente che l'avrà fatto non per nulla, immagino. Secondo il Messaggero, avrebbe fatto questo perché sarebbe una ritorsione interna all'arma. Esatto, interna all'arma per la non promozione del capitano ultimo. Ricorda il capitano ultimo che Raul Bova gli diede anche. Pare che lui sia una, questa è la ricostruzione, sia un allievo, e siccome il capitano ultimo è stato spostato e quindi è stato in qualche modo, non ha fatto la carriera che voleva fare, questa almeno è una delle ipotesi. Quindi lui, diciamo, una coda delle lunghe polemiche interne che hanno rimbalzato su molti processi del comando esercitato ai ROS dei Carabinieri dal generale Mori, che è stato portato alla sbarra in alcuni processi da cui è sempre uscito a fronte alta, ma che hanno portato a catene di promozioni, esclusioni e così via. E in questo forse si potrebbe capire una cosa che comunque non si può capire e giustificare da nessun punto di vista. Un capitano dei Carabinieri che falsa intercettazioni così, A, B, il PM di Napoli che non se ne rende conto, perché a rendersene conto sono quelli di Roma che poi riprendono in mano tutto, visto che è una frase su cui si fonda l'accusa politica al padre del premio, ecco, è tutto intollerabile. Però Pasquale, questa è ovviamente una ricostruzione, non so, è soddisfatto di questa risposta? No, che è un'ipotesi, Vabbè. No, non sono soddisfatto, e secondo me, diciamo, c'è qualcosa anche il fatto di più. Che di questo inghippo di procure di Napoli, procure di Roma, cioè non sono cose che francamente mi convincono molto. Questo è un argomento personale, insomma. No, più che non convincono, che sono abbastanza, se tutte se accertate, sono vergognose. Per quale motivo deve intervenire un'altra procura? No, cioè, perché è stata spostata a Roma l'indagine. Per competenza territoriale, perché gli reati, la Consip e le gare erano a Roma, non per levarle a Napoli come... No, ma su questo non c'è niente di regolare. Il problema è che quando è stata portata a Roma si sono accorti che appunto, per esempio, questa intercettazione sarebbe stata falsata, e gli magistrati di Roma hanno detto: ma a Napoli che è successo? Capisce? Io vorrei essere chiaro, tutta questa vicenda è di una gravità assoluta. Devo dire che mi ha molto colpito, se è vero quello che è riportato dalla stampa Fabio Martini a pagina 2, conosco Fabio Martini, so che non si inventa le cose, il virgolettato di Renzi che dice è molto grave, voglio sapere i responsabili, c'è l'establishment che tifa Movimento 5 Stelle, dà altrettanto l'idea di una reazione da parte di un ex presidente del Consiglio fuori dalle righe. Certo, non è una gravità istituzionale, è una lesione purtroppo alla credibilità. Io mi preoccupo delle inchieste serie contro la corruzione che è diffusa in Italia. Ecco, questo ufficiale dei Carabinieri fa cadere una inchiesta importantissima e ne perde la credibilità di tutte le indagini. Dall'altra, se l'ex presidente del Consiglio si risparmiava di puntare il dito contro un partito politico senza capire bene prima per quale ragione questo ufficiale ha falsato le cose, era meglio anche quello, perché dà l'idea di una politica impazzita, però impazziti anche pezzi di Stato. Sì. Allora, tornando al nostro argomento, sentiamo Anna Maria, poi i nostri ospiti. Anna Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo sottolineare a proposito della ribellione delle ragazze dell'Islam la necessità di aiutarle in maniera molto diversa da quello che può succedere per una donna occidentale, perché queste ragazze da un lato perdono i legami con la loro famiglia, dall'altro anche nell'ambito occidentale non sono ben riconosciute, e quindi tra l'altro una ragazza di 15 anni ha bisogno di relazioni familiari e quindi tutto questo comporterebbe un'attenzione da parte di chi le vuole veramente aiutare nel ristabilire, nell'aiutare a crescere, nel dare un sostegno a una molteplicità di relazioni che comunque gli adolescenti costruiscono, perché non si può contare solo sul grande libertà o la voglia di ribellione, perché anche nelle migliori occasioni questo può significare invece una rinuncia e un ritorno indietro ancora più grave da parte questo loro. Sì. Noi ringraziamo Anna Maria. Mariana Ismail, tornando a Mariana Ismail, a me è molto colpito l'idea del voler perseguire la via di un Islam laico. È molto coraggiosa, Mariana, questa via, perché è molto minoritaria, almeno dall'apparenza che noi vediamo di un Islam molto poco laico, anche se, come ci ha detto l'ascoltatore, 1,5 miliardi di persone, non si può generalizzare, o no, Mariana? Non è tanto minoritaria in realtà. Io stessa provengo da un paese come la Somalia, che negli anni 60, 70, 80 è stato un paese assolutamente laico, pur essendo nella Lega Araba. La Costituzione somala parificava il ruolo della donna e dell'uomo di fronte alla legge in maniera assolutamente uguale. I diritti erano diritti individuali e i doveri anche, quindi si era passato dall'essere un individuo sociale, quindi appartenente alla umma islamica, all'essere un individuo a tutti gli effetti. Quindi nell'ambito dell'Islam il diritto positivo esiste. Io sono in parte in disaccordo, capisco la preoccupazione del professore che ha chiamato prima, nel senso di dire non generalizziamo e non mettiamo in negativo un'intera religione, e su questa ragione, però quella religione ha preferito in qualche modo far avanzare una scuola giuridica reazionaria come quella appunto wahhabita eccetera eccetera, rispetto alle altre tre scuole giuridiche, che sostanzialmente per esempio quella marocchina è molto più laica da un certo punto di vista. Quindi la laicità che cosa significa? Significa semplicemente separare lo Stato e la religione, significa semplicemente mettere l'individuo al centro dei suoi diritti, nel senso che non è mediato né dalla religione né da altre sovrastrutture esterne all'umanità. Sì. Detto questo, io mi riallaccio a un altro punto. Che cosa serve un'associazione, un forum come il nostro? Per esempio anche a indicare a livello nazionale che per queste ragazze, per queste persone, si palesa un altro problema molto forte, per esempio la tutela, in che maniera giuridicamente vengono tutelate in Italia. Sì, soprattutto se visto che esce fuori dal permesso di soggiorno dei genitori, cosa vogliamo fare come individuo e come cittadino di queste ragazze, soprattutto minori? Quindi o vedere di avere un permesso di soggiorno illimitato per motivi di sicurezza, e quindi bisogna andare a pensare a questo, oppure incominciare veramente a lavorare su quello che è la legge dello ius soli e lo ius culture, quindi dare la possibilità a queste ragazze di avere la cittadinanza, ad essere cittadine esatto. Sotto gli effetti, allora, essere sottoricato. Si fermi qui perché abbiamo 30 secondi, ma forse Matteo Ricci un commento sulla questione politica, visto che coinvolge l'ex leader del suo partito e forse il futuro leader del suo partito, Matteo Renzi. Ce la può dare Ricci, no, di questa situazione? Questa storia dimostra una cosa molto semplice, che i processi vanno fatti nei tribunali e non si fanno né nei giornali né nelle sedi di partito né in Parlamento. C'è un partito politico, in particolar modo i 5 Stelle, che vivono di scandali, che non vedono l'ora di attaccare qualcuno sul personale, su questioni giudiziarie, non hanno rispetto del lavoro dei magistrati, mentre invece bisogna sempre avere rispetto dei magistrati, sapere che una persona è... Insomma, anche lei la mette su 5 Stelle, insomma, un po'... Ma è evidente che tutto chi strumentalizza queste vicende sono i 5 Stelle. Poi a volte cadono anche altri politici, ma chi fa una politica... Dice sono giustizialista in Italia in questo momento. Va bene, la ringraziamo Matteo Ricci, caro Oscar, ci dobbiamo fermare qui anche oggi. E va bene, tutti a vedere la partita di Coppa stasera. Dai.